Bella ragaz, benvenuti e benvenute alla seconda puntata della Finestra sul Giardino. Io sono Edo e insieme a Carolina, Paola e Fabrizio oggi proseguiremo con questo nostro tentativo di mostrarvi una nuova prospettiva sul mondo delle piante. E lo faremo entrando nel vivo del concetto di movimento e osservando da vicino quelle piante che più di altre lo hanno fatto proprio. Ma prima, sigla! Eccoci, quali sono allora queste piante specializzate nel movimento? Noi, e Clément prima di noi, le chiamiamo piante vagabonde. Quando parliamo di piante, parliamo ovviamente di un universo sconfinato e molto verde. Ma proprio per riuscire a distinguere le diverse tonalità all'interno di questa grande campitura, è necessario fare un po' di ordine e osservare tre insiemi di riferimento: gli alberi, gli arbusti e le erbacee. È su quest'ultimo gruppo, quello delle erbacee, che ci concentreremo principalmente nel corso di questa puntata. E, anche se non è l'unico ad avere delle specialiste nel movimento al suo interno, è sicuramente quello che ne ha di più. Esistono mille modi super tecnici per definire le erbacee, ma ce n'è anche uno che secondo me funziona di più. Sdraiamoci su un prato spontaneo a pancia in giù, guardiamoci intorno, osserveremo una molteplicità di forme, di colori, di comportamenti. Ecco, tutte quelle sono erbacee. Left a bag of bones, a trail of stones, for to find my way home now. As the air grows cold, the trees unfold, and I am lost and not found. Vagabond, ottimo assist di Beirut per il tema della puntata di oggi. Ci ritroviamo nel nostro giardino immaginario un'altra volta e, come ci ha suggerito Edo, ci sdraiamo sul prato, quindi osserveremo sicuramente le foglie verdi dell'erba e il colore dei fiori spontanei. Ma in tutto questo verde, questi colori, come facciamo a riconoscere le piante vagabonde intorno a noi? Sì, innanzitutto possiamo dire che quella di vagabonde non è una definizione botanica ma giardiniera. Potremmo definire vagabonde tutte quelle piante che non hanno bisogno di un aiuto umano per trovare il proprio spazio all'interno di un determinato ambiente. In linea teorica tutte le piante dovrebbero possedere questa qualità di autonomia, questa capacità di spontaneità. Però ovviamente non è così, dato che la presenza umana e lo spostamento delle piante ad opera dell'uomo da un luogo di origine ad un altro ha cambiato notevolmente le cose. Quindi, tornando alle caratteristiche delle nostre vagabonde, possiamo dire che in cima alla lista c'è quella della spontaneità, dell'autonomia. Oggi non siamo più abituati a relazionarci con specie spontanee. La stragrande maggioranza delle verdure o della frutta che mangiamo, infatti, è il prodotto di un processo di addomesticamento avvenuto nei secoli, ad opera della civiltà contadina da una parte o di vivaisti e botanici dall'altra. Questo processo, assolutamente fondamentale nella storia culturale dell'uomo, ci ha però convinti dell'immobilità delle piante. La nostra lingua, come sempre, è testimone di questa concezione. I termini pianta o piantare o tutto quello che è correlato a questa sfera semantica sono legati all'ambito dell'immobilità. Ma se osserviamo la radice latina del termine, ci accorgeremmo di una concezione abbastanza diversa. Il latino plat, infatti, si riferisce ai concetti di allargare, espandere, e quindi di movimento. Tutte le piante ovviamente si muovono, ma alcune lo fanno più di altre. Perché e come? Allora, compresi gli obiettivi evolutivi delle piante, cioè innanzitutto l'obiettivo di specie che si attua nella riproduzione e in secondo luogo l'obiettivo più ampio ecologico che si attua nella partecipazione a una diversità biologica, è utile osservare le strategie che queste piante attuano nell'esercizio del loro vagabondare. Mi sembra interessante definire tali strategie come comportamenti genetici, forzando volontariamente il contrasto tra questi due termini. I più rilevanti tra questi comportamenti, che provo ad elencarvi, riguardano la capacità riproduttiva delle piante. Per esempio, la concentrazione del ciclo biologico nell'arco di un anno, detto terofitismo, permette alle piante, che legano in quel caso la conservazione della specie solamente ai semi, un evidente potenziamento della capacità riproduttiva. Al contrario, un secondo comportamento, il criptofitismo, e cioè la concentrazione delle attività vitali in organi sotterranei, bulbi, rizomi e tuberi, permette loro una maggiore resistenza nel tempo e un inesorabile movimento nello spazio, a scapito però della varietà genetica. Altre strategie fondamentali sono l'attrattività per gli agenti impollinatori, di cui parleremo nel seguito di questa puntata, oppure la capacità germinativa in condizioni difficili, suoli impoveriti, disturbati e perfino incendiati. In ultimo, mi piacerebbe porre la vostra attenzione sulle strategie messe in atto da quel concentrato di perfezione biologica e consapevolezza ecologica rappresentato dai semi. I semi delle vagabonde, infatti, attuano dei meccanismi di dormienza che li dotano di una capacità germinativa non sincronizzata, cioè germinano in tempi diversi sull'arco del lungo periodo. Questa strategia, a sua volta, permette la formazione nel suolo, cioè sotto i nostri piedi, di una vera e propria banca dei semi, che, sempre nell'ottica di una varietà biologica e, potremmo dire, di un'economia ecologica, si attiva nel lungo periodo, appunto, al presentarsi delle condizioni ottimali. Com'è possibile allora, ci chiediamo e chiediamo voi, che nonostante una tale complessità comportamentale queste piante siano relegate ai margini del progetto umano? Ma forse è anche risposta ad esso che costruiscono il proprio comportamento. Oggi non lasciamo niente al caso, Born to be Wild, come i Wildflower di cui stiamo parlando. Bene, caro, parliamo un po' della relazione tra queste piante, di cui ci ha appena dato una definizione Edo, e il giardiniere. Abbiamo capito cosa sono le vagabonde e ora è interessante concentrarci un po' di più su quale ruolo, diciamo, rinnovato possono assumere sia nei vivai che nei giardini in movimento. Se è vero che sono piante che si espandono con estrema facilità, proprio grazie alle strategie che mettono in atto per la loro sopravvivenza, com'è possibile trovare una conciliazione o un equilibrio tra l'intenzione autonoma di queste piante e l'intenzione invece del giardiniere? Sì, se nel giardino che il progettato dal giardiniere arrivassero delle vagabonde, può il giardiniere aprire possibilità di trasformazione del progetto, come abbiamo detto tante volte, ma in dialogo con il progetto stesso. Il giardiniere è consapevole di essere solo uno dei tanti agenti del giardino in movimento, ma rivendica anche lui, come il resto della molteplicità, la sua intenzione. Facciamo un esempio. Io posso adibire una zona nel giardino alla libera proliferazione dell'incolto, quindi paradossalmente diventa possibile progettare un quadrato geometrico dell'incolto e anche un piccolo spazio, ecco, anarchico possiamo chiamarlo, nei giardini urbani, stimolerebbe l'arricchimento della biodiversità, servirebbe da rifugio per la fauna entomologica e anche per la flora sotterranea, rappresenterebbe una solida banca di semi naturale, accoglierebbe e farebbe convivere specie autoctone ed esotiche senza gerarchie e darebbe anche vita a un piccolo ma comunque importante corridoio ecologico. E poi in caso posso trapiantare e spostare delle nuove alloctone emerse in questo spazio ecco anarchico del giardino, raccoglierne i semi e disseminarle in altri angoli o aiole, farsi stupire dalla loro futura interpretazione del luogo. Progettare l'incolto, addirittura progettare l'anarchico è bellissimo, no? Contraddizione in termini che è sempre bello sottolineare. Quindi mi stai dicendo che nella relazione tra il giardiniere e le vagabonde, addirittura il giardiniere può risultarne quasi stimolato maggiormente. Se riesce a porsi, come hai detto tu, in un atteggiamento di apertura e di sorpresa di fronte all'imprevisto, può anche essere possibile che nella strategia di adattamento che adotta ne emergano delle soluzioni impensate, forse addirittura migliori, no? Magari anche da un punto di vista estetico, sicuramente da un punto di vista della biodiversità che caratterizza tutto il giardino. Certo. Però mi chiedo, non esiste una situazione in cui il giardiniere osserva del conflitto tra le piante, cioè tra le vagabonde e magari delle altre piante meno resistenti, diciamo? Per esempio, nell'orto, questo tipo di antagonismo va tenuto sotto controllo, per cui per permettere ai germogli di crescere, se nell'impianto di semina trovo delle graminacee le stirperò perché sono piante dominanti, colonizzanti rispetto alla debolezza del germoglio in crescita. Quindi esistono degli antagonismi di questo tipo anche all'interno del giardino? Sì, direi di sì, gli antagonisti ci sono, ma non da tenere d'occhio in quel senso. Rappresentano altri abitanti del luogo con cui trovare una sorta di negoziazione. Sono gli antagonisti delle forme conclusive, del disegno preimpostato a cui abbiamo fatto riferimento nella puntata precedente. E le piante antagoniste simbolo sono proprio le vagabonde, che oltre a proporre suggestioni estetiche importanti, riportano il giardino alla mercé del vivente, a disposizione della sua rete collettiva di supporto e quindi ad un'autogestione maggiore a livello di esigenza idrica, di resistenza alle malattie, di rete relazionale tra le specie. Con le loro infiorescenze attirano gli antagonisti di agenti patogeni o con l'arricchimento della flora sotterranea rinforzano la prestazione del suolo. Quindi il concetto di antagonismo in questo caso non ha una connotazione negativa. Come può, infatti, se ci pensi, non sedurre i giardinieri del giardino in movimento e anche tanti compagni e compagne questo aspetto di sovversione dal basso, come può essere quello di un fiore marginalizzato venuto da lontano che elabora strategie socio-biologiche per garantire la trasformazione della sua esistenza sviando a qualsiasi politica di gestione del territorio? Però dobbiamo precisare che il giardino, come alla fine anche l'orto, rappresenta il punto d'incontro tra l'uomo e il mondo dei non umani. Quindi la legittimazione della libertà di espansione non può venire in toto né da una parte né dall'altra. Ciò che deve essere però legittimato è lo spazio di dialogo. Come infatti abbiamo detto tante volte, il progetto del giardiniere c'è, ma si apre anche ad altre possibilità di pensiero sociale ed estetico. E anche per quanto riguarda infatti il discorso sull'orto, se si progettasse in ottica sinergica, Anche il discorso sulla legittimazione del movimento delle vagabonde cambierebbe se ci pensi. Infatti, cosa dici? Non possiamo parlare di ortista in movimento, quindi un ortista che incoraggia intorno al suo orto sinergico relazione con le storie di vita delle vagabonde per stimolare una maggiore autogestione produttiva e anche un po' per dare un tono frizzantino e scapigliato ai filari standardizzati tipici dell'orto. No, capisco quello che vuoi dire e effettivamente gli approcci più recenti anche in ambito di coltivazioni di tipo alimentare, e penso a tutte le pratiche utilizzate in permacultura, quindi gli orti sinergici, ancora di più gli orti biodinamici, pongono tutti l'attenzione sulla, in primis sulla fertilità del suolo, quindi su come lavorare il suolo, e soprattutto anche sulle consociazioni tra le piante per creare delle condizioni migliori al proliferare dell'abbondanza, intesa in questo senso più sistemico, non solo per l'abbondanza della singola pianta. Per esempio, sempre più spesso si vedono orti arricchiti di piante da fiore, tipo tageti, nasturzi, gerani, calendule. Eccole le nostre vagabonde, sono proprio loro. Effettivamente i fiori hanno effetti positivi anche sulle colture, perché attirano gli insetti benefici, impollinatori, e addirittura talvolta allontanano quegli ostili o dannosi per le piante orticole. Certo. Interessante questo argomento dopo la pausa musicale, che possiamo approfondire ulteriormente con Edo e Fabri, il nostro apicoltore. Un beija-flor che trouxe meu amor, foi, foi embora. Olha só como é lindo meu amor. Feliz agora, beija-flor que trouxe meu amor. Foi, foi embora. Olha só como é lindo meu amor. Estou feliz agora. Veja só a névoa branca que sai de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem? Ou será que me faz mal? Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país, pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor. Estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, foi, foi embora. Olha só como é lindo meu amor. Estou feliz agora. E a menina que um dia por acaso veio me dizer que não gostava de meninos tão largados que tocam reggae e MPB. Mas isso é coisa tão banal, perto da beleza do Planalto Central e das pessoas que fazem do Cerrado o habitat quase ideal. Beija-flor que trouxe meu amor, foi, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, foi, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Agradeço por estar aqui, manifestar a emoção e colocar minhas ideias, sentimentos em forma de canção. Nati Roots, presente di un beija-flor. Allora, prendiamo ancora una volta il concetto che più degli altri ha segnato questi nostri brevi interventi: la spontaneità e quindi l'autonomia. Siamo abituati a considerare la spontaneità in equazione con la casualità. Questo può essere vero in alcuni campi, ma non vale per la biologia delle piante, né tantomeno per l'approccio che la loro osservazione e conoscenza stimola in noi. C'è qualcosa nella nostra cultura che ci fa pensare che una pianta si crei dal nulla nel luogo in cui noi la vediamo, immobile, come compete a lei e a quelle della sua specie. Quello che le radici di una pianta invece apparentemente ci nascondono è in realtà l'insieme dei movimenti che le hanno portate lì. Per ultimo, in ordine temporale, quello del seme che in quel luogo è arrivato. Le piante arrivano nei luoghi in cui germinano. Prendiamo per esempio un campo debbiato oppure una parete imbrunita da un incendio. Solo alcune piante specifiche sono capaci di colonizzare quei luoghi e casualmente ci arrivano. Un altro movimento che ogni pianta ci racconta nella sua splendida mobilità è quello del polline, che dall'organo maschile arriva a quello femminile. Questo viaggio, a volte breve, a volte molto lungo, è il frutto di calcoli evolutivi lunghi millenni e tuttora in atto, proprio in questo momento. Ecco, anche questo è un movimento in effetti. Ma di questo può parlarci in maniera più precisa Fabri, il nostro apicoltore. Grazie Edo per avermi passato questa palla tematica con la quale cercherò di fare una capriola all'indietro di 120 milioni di anni, che è il tempo impiegato da piante e api o altri insetti per intraprendere questo percorso evolutivo che arriva ai giorni nostri. Durante tutto questo enorme lasso di tempo la relazione fiori e api è stata un'infinita danza di corteggiamenti, cioè l'evoluzione di entrambi è andata di pari passo. I fiori hanno fatto di tutto per essere attraenti con richiami odorosi, colori e forme, e gli insetti hanno fatto di tutto per essere prestanti e sviluppare caratteristiche fisiche sempre più efficaci per la raccolta del polline, che è sostanzialmente il frutto della loro relazione. Se avete mai osservato un'ape o un bombo andare a zonzo tra i fiori, noterete che spesso la loro peluria è ricoperta da una polvere gialla, bianca, rosa o viola. Quello è il polline che i fiori hanno rilasciato sull'insetto. Poi l'ape dispone di una serie di strumenti che nel corso dell'evoluzione si sono perfezionati, come setole, pettini e uncini disposti sulle zampe, che le permettono di ripulirsi da questa polvere e di raccoglierla per portarla all'alveare, perché per loro è un nutrimento fondamentale. Ma una parte di questo polline rimane sulla loro pelliccia. E quando l'ape esce per andare a bottinare, si dice, quindi a raccogliere il cibo, nel suo tragitto essa visiterà solo fiori della stessa specie e così facendo distribuirà involontariamente i granuli pollinici da un fiore all'altro, mettendo così in atto il meccanismo fondamentale per la vita è quello dell'impollinazione. Nel corso del tempo poi si sono creati dei veri e propri legami esclusivi che vedono i fiori visitati ad esempio da una sola specie di ape e in grado solo questa di raggiungere, grazie alla sua conformazione corporea, gli organi florali che dispensano il nettare e il polline, come ad esempio succede per i bombi e le solanacee, cioè i pomodori, i peperoni, tante delle piante che abbiamo nell'orto. I bombi durante questo percorso evolutivo sono riusciti a trovare il modo per accedere a questo tesoro nutritivo per loro e fondamentale per le piante che è il polline, in questo caso ad esempio con l'emissione di vibrazioni corporee, di frequenze sonore che stimolano la pianta a rilasciare il polline. La forma dell'infiorescenza ad esempio di altri fiori simula l'aspetto della femmina e quindi i maschi sono attirati su di essa e nel tentativo di accoppiarsi si imbrattano di polline e lo trasportano da una pianta all'altra. A ben vedere, quello tra le api e i fiori è quindi una specie di corteggiamento anomalo, molto più simile a un rapporto di complicità. Intendo dire, come ovvio, che non è un accoppiamento tra due specie, un animale, un fiore, finalizzato alla procreazione. La pianta e l'insetto però si attirano reciprocamente. Il fiore sviluppa colori, forme e odore che fanno da richiamo per una o più specie. Ma l'intenzione della pianta è quella di raggiungere piante della sua stessa specie, sfruttando così l'attività e il movimento degli insetti pronubi. Bene, grazie Fabri, mi intrometto un attimo per sottolineare un aspetto che secondo me è importante, e cioè il fatto che le piante vagabonde di cui stiamo parlando hanno una caratteristica evolutiva, un'evoluzione biologica basata su una strategia di impollinazione mutualistica, che è esattamente quello che ci hai appena spiegato, tutte le strategie di attrazione da parte delle piante e di relazione con gli insetti. Questa relazione con l'entomofauna, creata e stimolata dai comportamenti delle piante, però ovviamente è entrata in contrasto nel tempo con i comportamenti dell'uomo, che hanno riversato nell'ambiente antiparassitari, veleni e insetticidi. Di fronte a tutto questo, infatti, le vagabonde hanno dovuto trovare una nuova strategia, sempre in movimento. La nuova strategia è incentrata su una despecializzazione. Infatti oggi molte delle vagabonde di cui abbiamo parlato e parleremo basano le proprie capacità riproduttive sul rapporto con il vento, addirittura sull'autoimpollinazione, sulla propagazione vegetativa e sulla capacità di sviluppare semi vitali anche in assenza di riproduzione sessuale. Esempio fra tutti il tarassaco, che è capace di questa magia. Sì, ci sono piante come il tarassaco che riescono praticamente a sopperire anche alla mancanza di qualsiasi tipo di aiuto esterno, come può essere quello degli insetti, e casi dove invece c'è una ricerca esasperata della relazione tra la pianta e, chiamiamolo, l'agente impollinatore, che può essere l'insetto. Visto che nel corso di questa puntata abbiamo sfatato innanzitutto un luogo comune, quello per cui le piante sarebbero essere immobili, mentre invece abbiamo visto come esse siano in grado di muoversi e di colonizzare, di rivitalizzare anche luoghi spogli, mi piacerebbe dimostrare con un piccolo esempio un'altra loro insospettabile qualità. Vi racconto una storia simpatica. Allora, su un'isola della Cina esiste una vespa, chiamata Vespa Bicolor, che è l'agente impollinatore di una particolare varietà di orchidea tipica di quest'isola. Ma questa vespa è carnivora e predilige per la sua dieta gli esemplari di ape, Apis mellifera, Apis cerana, cioè le api da miele, che cattura nei pressi dei loro alveari. Ma allora, perché questa vespa visita i fiori delle orchidee? Allora, quando sono sotto attacco, le api emettono un feromone di allarme che serve ad allertare le sorelle dell'alveare. Questo permette alle api di organizzare la difesa, ma allo stesso tempo attira altre vespe che sono richiamate dall'odore del feromone. Questa orchidea ha imparato a riprodurre lo stesso feromone emesso dalle api e in questo modo riesce ad ingannare la vespa bicolor e attirarla sui propri fiori. A quel punto la imbratterà col suo polline che essa trasporterà su un'altra orchidea e poi ancora su un'altra, assicurandone l'impollinazione. Possiamo quindi dire che oltre a muoversi, le piante sono in grado di osservarci, osservare gli esseri viventi e studiare i loro comportamenti e provare a sfruttarli a proprio vantaggio. Se tutto ciò non fosse meraviglioso, sarebbe sicuramente inquietante. Correvano veloci lungo le gallerie, i treni di una volta trasportavano le spie, nelle carrozze letto, sposi in una di miele, facevano l'amore con l'ausilio del motore. Mio nonno preferiva per la villeggiatura portare i suoi parenti coi bagagli in carrozzella. L'aria della campagna, carica di letame, spostava vibrazioni di una vita troppo bella. La musique bien différente dans cela de la société d'Albertine. Sulle note di Battiato vi salutiamo. Vi abbiamo raccontato un sistema complesso, fatto di contraddizioni e riposizionamenti, ma speriamo di avervi incuriositi e incuriosite. Se vi siete persi la puntata, la potete recuperare sul sito della radio, che ringraziamo nuovamente per l'ospitalità. I nostri contatti invece sono, sia per Facebook che per Instagram, il Vivaietto Bologna. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto. Ciao vagabondi e vagabonde. Dalle macchine a vapore. Giocavano sull'aia, bambini e genitori, Calasso li avvertiva dal Corriere della Sera, copritevi che fa freddo.